libertà, e nato il santo pargolo che il mondo adorerà. Osanna, osanna, cantano con giubilo ante cor i tuoi pastori ed angeli, o re di luce e amor. The holy night that gave the world its Christmas rose, its King of love and light.